Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Monsieur de Tréville era per il momento di pessimo umore. Tuttavia salutò cortesemente il giovanotto, il quale si inchinò fino a terra e sorrise nel ricevere i suoi omaggi, che per l'accento bearnese gli ricordarono la giovinezza e insieme il paese natio, duplice ricordo che a tutte le età fa sorridere l'uomo. Ma avvicinandosi quasi subito all'anticamera e facendo a D'Artagnan un cenno con la mano, come per chiedergli permesso di finirla con gli altri prima di cominciare con lui, chiamò tre volte e ogni volta con voce più alta, sicché percorse tutti i toni intermedi tra l'accento imperioso e quello irritato. Athos! Porthos! Aramis! I due moschettieri dei quali abbiamo già fatta conoscenza e che rispondevano ai due ultimi di questi tre nomi, lasciarono immediatamente i gruppi di cui facevano parte e mossero verso il gabinetto la cui porta si richiuse alle loro spalle non appena ne ebbero varcata la soglia. Il loro contegno, anche se non del tutto tranquillo, suscitò tuttavia, per quella noncuranza dignitosa e insieme sottomessa, l'ammirazione di D'Artagnan, che vedeva in quegli uomini dei semidei e nel loro capo un Giove olimpico armato di tutte le folgori. Entrati che furono i due moschettieri e richiusasi la porta dietro di loro, quando il brusio dell'anticamera, al quale l'appello lanciato un istante prima aveva indubbiamente dato nuovo alimento, tornò a farsi sentire, quando finalmente Monsieur de Tréville, taciturno e con le sopracciglia aggrottate, ebbe misurato per tre o quattro volte a gran passi tutta la lunghezza della stanza, passando ogni volta davanti a Porthos e ad Aramis, egli si fermò di botto di fronte a loro e, squadrandoli da capo a piedi, con sguardo irato, esclamò: «Sapete cosa mi ha detto il re? E non più tardi di ieri sera. Lo sapete, signori?» «No», risposero dopo un attimo di silenzio i due moschettieri. «No, signore, lo ignoriamo. Mi ha detto che d'ora in poi avrebbe reclutato i suoi moschettieri tra le guardie del cardinale.» «Tra le guardie del cardinale? E perché mai?» chiese bruscamente Porthos. «Perché s'accorgeva che il suo vinello aveva bisogno di essere rinvigorito con l'aggiunta di un buon vino.» I due moschettieri arrossirono fino al bianco degli occhi. «Sì, sì», continuò Monsieur de Tréville, animandosi, «sì, e Sua Maestà aveva ragione, perché per Diana è vero che i moschettieri fanno una meschina figura a corte. Ieri sera, alla partita del re, il cardinale raccontava, con un'aria di condoglianza che mi dispiacque assai, che l'altro ieri quei dannati moschettieri, quei diavoli a quattro», e calcava su queste parole con un'ironia che mi dispiacque ancora di più, «quegli attaccabrighe», soggiungeva guardandomi con il suo sguardo felino, «s'erano attardati in Rue Ferou, in osteria, e che una ronda delle sue guardie era stata costretta ad arrestare i disturbatori.» «Perbacco, dovete saperne qualcosa. Arrestare dei moschettieri. Voi altri c'eravate, non negatelo. Vi hanno riconosciuto il cardinale, vi hanno minati. È colpa mia, sì, colpa mia, perché sono io che scelgo i miei uomini. Dite su, voi Aramis, perché diavolo mi avete chiesto la casacca quando stavate così bene sotto la tonaca? E Athos? Non vedo Athos. Dov'è?» Rispose messo Aramis: «Signore, è ammalato, molto ammalato.» «Si teme che sia vaiolo, signore», rispose Porthos, volendo a sua volta metter bocca nella conversazione, «il che sarebbe terribile, perché certamente resterebbe sfigurato.» «Vaiolo! Ecco un'altra panzana che mi raccontate, Porthos. Malato di vaiolo alla sua età, impossibile, ma ferito certo, forse ucciso. Se lo sapessi, per Dio, signori moschettieri, non voglio che si bazzichino così i posti malfamati, che si attacchi briga per strada e si giochi di spada nei crocicchi. Porthos e Aramis fremevano di rabbia. Avrebbero strozzato volentieri Monsieur de Tréville se non avessero sentito che in fondo era solo il grande affetto che aveva per loro a farlo parlare così. «Ah, i moschettieri del re si fanno arrestare dalla guardia del cardinale», continuò Monsieur de Tréville, furente nell'intimo quanto i suoi soldati, ma scandendo le parole e conficcandole una a una, per così dire, come altrettante stilettate nel petto dei suoi ascoltatori. «Ah, sei guardie di sua eminenza arrestano sei moschettieri di sua maestà, per Diana». Ho preso la mia decisione, vado immediatamente al Louvre. Do le dimissioni da capitano dei moschettieri del re per chiedere una luogotenenza tra le guardie del cardinale. E se si rifiuta per Diana, mi faccio abate. Ebbene, capitano, disse Porthos fuori di sé. La verità è che eravamo sei contro sei, ma siamo stati presi a tradimento. E prima che avessimo avuto il tempo di sguainare le spade, due di noi erano caduti morti e Athos, gravemente ferito, non valeva granché di più. Athos, lo conoscete, capitano, due volte ha tentato di rialzarsi e due volte è stramazzato al suolo. Comunque noi non ci siamo arresi, no, ci hanno trascinati via di forza. Per strada ce la siamo svignata quanto ad Athos. L'avevano creduto morto e l'hanno lasciato lì, bellamente, sul campo di battaglia, pensando che non valesse la pena di portarlo via. Ecco la storia. E io ho l'onore di assicurarvi d'averne ammazzato uno con la sua stessa spada, disse Aramis, perché la mia si è spezzata alla prima parata. Ucciso o pugnalato, signore, come preferite. «Non lo sapevo», rispose Monsieur de Tréville con un tono alquanto raddolcito. «Il cardinale, a quanto vedo, aveva esagerato». «Ma di grazia, signore», continuò Aramis, che vedendo il suo capitano rabbonirsi osava arrischiare una preghiera. «Di grazia, signore, non dite anche che Athos è ferito». Sarebbe desolato se ciò giungesse alle orecchie del re, e siccome la ferita è gravissima, visto che dopo aver trapassata la spalla è penetrata nel petto, ci sarebbe da temere. In quell'istante stesso la portiera si sollevò, e una testa nobile e bella, ma terribilmente pallida, apparve sotto la frangia. «Athos!» esclamarono due moschettieri. «Athos!» ripeté lo stesso Monsieur de Tréville. «Mi avete fatto chiamare, signore?» disse Athos a Monsieur de Tréville con voce debole ma calmissima. «Mi avete fatto chiamare, mi hanno detto i nostri camerati, e mi affretto a ubbidire ai vostri ordini. Eccomi, signore, cosa comandate?» E a queste parole il moschettiere, in tenuta irreprensibile, stretto alla cinta come di solito, entrò con passo fermo nella stanza. Monsieur de Tréville, profondamente commosso da quella prova di coraggio, gli si precipitò incontro. «Stavo dicendo a questi signori», soggiunse, «che proibisco ai miei moschettieri di arrischiare la vita senza necessità, perché le persone di fegato sono assai care al re, e il re sa che i suoi moschettieri sono i più animosi del mondo. La vostra mano, Athos!» E senza aspettare che il nuovo venuto rispondesse per primo a quella prova d'affetto, Monsieur de Tréville afferrava la mano destra e gliela stringeva con tutte le forze, senza accorgersi che Athos, per quanto si padroneggiasse, lasciava sfuggire un gesto di dolore e impallidiva ancora, cosa che sarebbe parsa impossibile. Quando tutti furono usciti e la porta fu richiusa, ossia di Treville, si volse e si trovò solo con il giovane. L'incidente gli aveva fatto perdere alquanto il filo delle idee. Si informò di ciò che volesse l'ostinato postulante. D'Artagnan allora disse il suo nome e Monsieur de Tréville, venendogli d'un tratto alla mente tutti i ricordi del presente e del passato, si trovò al corrente della situazione. «Scusate», gli disse sorridendo, «scusate, mio caro compatriota, ma vi avevo completamente dimenticato. Che volete? Un capitano non è altro che un padre di famiglia carico di responsabilità maggiori di un qualsiasi padre di famiglia. I soldati sono dei bambinoni, ma siccome ci tengo che gli ordini del re e soprattutto quelli del cardinale siano eseguiti», D'Artagnan non riuscì a dissimulare un sorriso. A quel sorriso Monsieur de Tréville stimò di non avere a che fare con uno sciocco e, venendo dritto allo scopo, pur cambiando discorso, disse: «Ho voluto molto bene a vostro padre. Che posso fare per il figlio? Sbrigatevi, non posso disporre del mio tempo». «Signore», disse D'Artagnan, «nel lasciare Tarbes per venire qui, mi proponevo di chiedervi, in ricordo di quell'amicizia di cui serbate la memoria, una casacca da moschettiere. Ma dopo tutto quello a cui assisto da 2 ore, capisco che un favore simile sarebbe enorme e temo di non meritarlo». «Difatti è un favore, giovanotto», rispose Tréville, «ma può darsi che non sia così al di sopra della vostra portata come credete o sembrate credere. Comunque, una decisione di Sua Maestà ha previsto il caso e vi annunzio con rammarico che non si accetta nessuno come moschettiere prima della prova preliminare di qualche campagna, di alcune azioni brillanti o di un servizio di 2 anni in un qualche altro reggimento meno favorito del nostro». D'Artagnan si inchinò senza rispondere niente. Si sentiva ancora più desideroso di indossare l'uniforme di moschettiere, dacché c'erano difficoltà così gravi per ottenerla. «Ma», continuò Tréville, fissando sul compatriota uno sguardo così penetrante che si sarebbe detto volesse leggergli fino in fondo al cuore, «ma in onore di vostro padre, mio vecchio compagno, come vi ho detto, voglio fare qualcosa per voi. Oggi stesso scriverò una lettera al direttore dell'Accademia Reale che fin da domani vi accetterà senza spesa. Vi imparerete il maneggio del cavallo, la scherma e la danza. Vi farete buone conoscenze e di tanto in tanto tornerete a trovarmi per dirmi a che punto siete e se posso fare qualcosa per voi». D'Artagnan, per quanto ancora non avvezzo ai modi di corte, s'avvide della freddezza di quell'accoglienza e disse: «Ahimè, signore, mi accorgo quanto mi manchi oggi la lettera di raccomandazione che mio padre mi aveva consegnata per voi». «Difatti», rispose Monsieur de Tréville, «mi meraviglio che abbiate iniziato un così lungo viaggio senza quel viatico d'obbligo che è l'unica risorsa per noi bearnesi». «L'avevo, signore, e grazie al cielo con tutti i crismi», esclamò D'Artagnan, «ma me l'hanno sottratta a tradimento». E raccontò tutta la scena di Meung, descrisse il gentiluomo sconosciuto nei minimi particolari, il tutto con un calore, una sincerità che incantarono Monsieur de Tréville. «Ditemi, quel gentiluomo aveva per caso una leggera cicatrice alla tempia?» «Sì, come la scalfittura d'una pallottola». «Di colorito pallido e bruno di capelli?» «Sì, sì, proprio così». «Come mai, signore? Conoscete quell'uomo?» «Ah, se mi capita di ritrovarlo, e lo ritroverò, ve lo giuro, fosse anche all'inferno!» «Aspettava una donna?» Perlomeno è partito dopo aver parlato un attimo con colei che aspettava. Quella donna era inglese. La chiamava Milady. «È lui!» mormorò Tréville. «È lui! Oh, signore! Voi sapete chi è quell'uomo?» esclamò D'Artagnan. «Indicatemi chi è e di dov'è, e vi dispenso da tutto, anche dalla vostra promessa di farmi entrare i moschettieri. perché prima d'ogni altra cosa voglio vendicarmi. Guardatevene bene, giovanotto, esclamò Treville. Anzi, se lo vedete venire da un lato della strada, passate dall'altro. Non cozzate contro una simile roccia. Vi spezzerebbe come un vetro. D'improvviso Treville tacque, colpito da un subitaneo sospetto. Quell'odio feroce che il giovanotto manifestava così apertamente per quell'uomo, il quale con scarsa verosimiglianza gli aveva trafugato la lettera del padre, quell'odio non nascondeva qualche tranello. Il giovane non era inviato da sua eminenza, non veniva a tendergli una trappola. Questo preteso D'Artagnan non era un emissario del cardinale che cercavano di introdurgli in casa e che gli avevano messo alle costole per carpirne la fiducia e per poi rovinarlo secondo un metodo già mille volte adoperato. Egli guardò D'Artagnan questa seconda volta ancora più intensamente che la prima. «So bene che Guascone pensò, ma può esserlo tanto per il cardinale quanto per me. Su via, mettiamola alla prova.» «Amico mio», gli disse lentamente, «voglio, come al figlio del mio vecchio amico, perché prendo per vera la storia della lettera smarrita, voglio, dico, per riparare la freddezza che avete sulle prime notata nella mia accoglienza, svelarvi i segreti della nostra politica. Il re e il cardinale sono ottimi amici. I loro apparenti contrasti servono soltanto a ingannare gli sciocchi. Mettetevi in mente che sono devoto a questi due onnipotenti padroni e che mai i miei atti più responsabili avranno altro scopo che l'obbedienza al re e al cardinale, uno dei più illustri geni che abbia prodotto la Francia. Adesso, giovanotto, sappiate regolarvi e se, o per famiglia o per relazioni o anche per istinto, provate verso il cardinale qualcuna di quelle inimicizie che vediamo sorgere nei gentiluomini, ditemi addio e lasciamoci. Fra sé Treville diceva, se il cardinale mi ha spedito questa giovane volpe, certamente lui che sa fino a che punto lo detesto, avrà suggerito alla sua spia che il mezzo migliore di farmi la corte è dirmene su di lui di tutti i colori. Quindi, nonostante le mie affermazioni, il furbo compare mi risponderà senza fallo che non posso offrire sua eminenza. Fu invece l'opposto di quel che Treville si aspettava, e D'Artagnan con la massima semplicità rispose, «Signore, arrivo da Parigi con eguali intenzioni. Mio padre mi raccomandò di non sopportare nulla tranne che dal re, dal cardinale e da voi, che considera i primi tre uomini di Francia. Ho quindi la massima venerazione per il cardinale, continuò, e il più profondo rispetto per i suoi atti. Monsieur de Treville rimase ultra meravigliato, tanto acume, tanta franchezza alla fin fine, suscitavano la sua ammirazione, ma non gli toglievano del tutto i sospetti. Più quel giovane era superiore agli altri coetanei, più era temibile se gli si ingannava. Tuttavia strinse la mano a D'Artagnan e gli disse «Siete un bravo ragazzo, ma in questo momento non posso fare altro di quanto vi ho offerto prima. La mia casa vi sarà sempre aperta. In seguito, potendo chiedere di me a qualsiasi ora e quindi cogliere tutte le occasioni, probabilmente otterrete quello che desiderate ottenere». «E cioè, signore», l'interruppe D'Artagnan, «voi aspettate che io me ne sia reso degno. State tranquillo», soggiunse con la familiarità del guascone, «non aspetterete a lungo». E salutò per ritirarsi, come se ormai il resto riguardasse lui solo. «Ma diamine, aspettate», disse Treville trattenendolo. «Vi ho promesso una lettera per il direttore dell'Accademia. siete troppo fiero per accettarla, mio giovane gentiluomo. No, signore, rispose D'Artagnan, vi garantisco che a questa non succederà come all'altra. La custodirò così bene, ve lo giuro, che giungerà al suo indirizzo. E guai a chi tentasse di sottrarmela. Monsieur de Tréville sorrise a quella fanfaronata. Dopo aver terminato la lettera, la sigillò e, alzandosi, si accostò al giovane per dargliela. Ma nel momento in cui D'Artagnan tendeva la mano per riceverla, Monsieur de Tréville fu sbalordito nel vedere il suo protetto sobbalzare, avvampare di collera e lanciarsi fuori dalla stanza strillando. «Accidenti! Non mi sfuggirà questa volta!» «Chi mai?» chiese Monsieur de Tréville. «Lui, il mio ladro!» rispose D'Artagnan. «Ah, traditore!» E disparve.